Noi abbiamo tenuto il 14 dicembre scorso un primo incontro, una prima assemblea alla sala consiliare del quartiere Porto, a cui hanno partecipato quasi un centinaio di compagni e compagne di provenienza e di estrazione molto diversa, da sindacati di base, praticamente tutto, ai partiti di sinistra, di Fondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, dei giovani comunisti, studenti e studentesse, insieme a tanti comitati che si muovono in città sugli argomenti più vari. E quindi abbiamo pensato che di non lasciare perdere quell'esperienza e quindi di riprendere un po' il filo rosso dei discorsi che abbiamo tenuto un mese fa. Venerdì prossimo quindi avremo un altro appuntamento, probabilmente più piccolo nei numeri, ma più centrato sugli argomenti e sui quali dare priorità sull'intervento politico dei cittadini e quindi continuare una riflessione larga, anche perché le feste sono passate, però l'epifania non si è portata via né Trump né Meloni, tantomeno l'Epore, che è quello che conta di meno, però è ancora qui. E quindi cercare di capire quali priorità darci sull'intervento politico in città, sugli interventi nei movimenti, sapendo che c'è un grande tema proprio irrisolto e del quale non si vede ad oggi la fine, che è il tema delle varie guerre, che invece che diminuire, come si vede, aumentano, dal Venezuela al possibile intervento americano in Groenlandia, ai temi invece molto più locali, cioè su come sta cambiando la nostra città, su come sta cambiando Bologna, diventando una città sempre più per ricchi, che contro i lavoratori pagano già salari bassi, anche un'inflazione cittadina altissima, e quindi capire un po' quale tipo di mobilitazione tentare di mettere in campo, perché bene le riflessioni, bene il confronto, ma poi questo deve essere finalizzato anche a interventi più diretti e quindi anche più rivendicativi, e aprire anche dei conflitti in città oppure rafforzare quelli che già ci sono.